Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two. Sound check. Microphone check. Il suono della musica di Gigi Telesforo. Buongiorno a tutti, siete in contatto con il soundcheck di Radio 24. Buon pomeriggio da Gigi Telesforo, in diretta da Firenze in occasione di PT Uomo, in questo studio attrezzato qui proprio a fianco a The Bridge, con ospite, nostra ospite oggi al soundcheck, la rappresentante numero uno della musica brasiliana in Italia, considerata dai brasiliani ambasciatrice del sound brasiliano qui nel nostro paese. Buon pomeriggio a Barbara Casini. Buon pomeriggio a te Gigi e a tutti gli ascoltatori. Sono felicissimo di vederti, anch'io, di trascorrere queste due puntate qui in diretta da Firenze con te per parlare di musica brasiliana e per ascoltare la nostra musica preferita. Certo, intanto sono felice anche di annunciare che, oltre al fatto che tu insomma ormai hai tanti anni di professione alle spalle, quanti anni più o meno di musica? Più di 30. Più di 30, senz'altro. 32, va. Però sei anche una giovanissima autrice di libri. Mm-hmm. Questo è il primo libro che hai scritto. Sì, esatto. Un libro che si intitola Se tutto è musica, pensieri e parole dei compositori brasiliani. Barbara fa musica, come ha detto, da 30 anni, chitarrista, cantante, hai suonato più o meno di tutto nella tua carriera con grandissimi musicisti italiani e internazionali. Posso anche ricordare che un giovanissimo Stefano Bollani, certo, ventenne, suonava nelle tue band, esatto, hai suonato tanto con Enrico Rava, mm-hmm, sei passata dal jazz alla musica brasiliana. Mm-hmm. E oggi scrivi, raccogli un po' di memorie e di appunti in questo libro, parlando e raccontandoti insieme agli amici brasiliani. Sì. Che tipo di avventura è stata questa con il libro? Meravigliosa, è stato proprio un bel regalo che mi sono fatta, sinceramente. Sono, dopo tutti questi anni, quindi più di 30 anni di carriera e quindi di ricerca appassionata di questa musica, di questa cultura, io sono andata a bussare alle porte dei miei idoli, diciamo, e gli ho chiesto loro di raccontarmi la loro esperienza, la loro vita, la loro emozione, raccontarmi soprattutto nel possibile questo meraviglioso mistero che è la composizione, cioè il creare la musica, no? Dal nulla, che poi non, ovviamente non è mai dal nulla, ma è stato emozionante entrare nelle case di questi che per me erano degli idoli veri e propri, Chico Buarque, Edu Lobo, Egberto Gismonti e tanti altri, che mi hanno veramente aperto non solo le porte delle loro case, ma anche proprio un po' le porte del loro universo musicale e a volte anche del loro cuore, nel senso della loro vera emozione. Sì, è stato un percorso, una specie di viaggio proprio nelle loro diverse case, nelle loro diverse vite, un po' a tappe. Ecco, no? Io leggendo il libro ho notato che nelle varie interviste, nelle varie chiacchierate che tu hai fatto con tutti i tuoi amici, ci sono due nomi sempre presenti, e sono Antonio Carlos Jobim, certamente, e Elis Regina. Elis Regina. Perché? Chiaro. Perché sono, Antonio Carlos Jobim è il maestro sovrano, maestro soberano, no? Perché è il grande compositore, il grande inventore per certi aspetti, sì, l'innovatore proprio del sound e poi un grande compositore, cioè che va molto al di là della bossa nova o della musica brasiliana, un grande del Novecento, che ha lasciato un'eredità imprescindibile a tutti coloro che lo hanno conosciuto, solo ai musicisti brasiliani, non solo a tutti, assolutamente, ai musicisti brasiliani, quindi ognuno di loro comunque lo ricorda come un padre, quindi con un affetto, una riconoscenza incredibile, che era la sua generosità dell'accogliere anche fisicamente i giovani musicisti e dimostrare. Elis Regina è la più grande il nome assoluto. Stesso lo dice, Elis Regina. Allora io vorrei celebrare, fantastico, questo nostro incontro con uno dei brani più carini, usare questo termine, scritto da Antonio Carlos Jobim, quasi uno scherzo, un gioco, ma una composizione geniale come Agua de Marzo. E qui Tom Jobim e Elis Regina insieme al soundcheck di Radio 24. È una cobra, è un pau, è João, è José, è un espinho, na mão, è un corte, no pé, são as águas de março fechando o verão, essa de vida no teu coração, é pau, é pedra, é o toco, sozinho. É um passo, é uma ponte. É um belo horizonte. São as águas de março, fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Tutta la genialità di Antonio Carlos Jobim, che ha creato questo giro armonico irresistibile, qui con la voce di Elis Regina al soundcheck di Radio 24, nostra ospite Barbara Casini. Restate con noi. Soundcheck. Il suono della musica. Da cada vez mais tarde. La voce, la chitarra e tutta la passione per la musica brasiliana di Barbara Casini, nostra ospite al soundcheck qui a Firenze in diretta per voi in questo appuntamento. Anche domani saremo insieme con Barbara Casini. Questo era Allo Allo Marciano, un vecchio successo di Elis Regina che Barbara ha recuperato per una produzione di qualche anno fa intitolata Uragano Elis, proprio un tributo a questa grande cantora brasileira. Interprete insuperabile, insuperata, è mia musa, mio guru. Ecco, ma ho letto anche nelle varie interviste che ti hanno rilasciato i tuoi amici che proprio Elis era proprio, aveva qualcosa di magico, di speciale. Assolutamente. Che cosa? Lei era un personaggio che aveva scarsa competenza tecnica, aveva una sensibilità assolutamente superiore al normale, era capacissima di, innanzitutto, le doti interpretative strepitose, una padronanza del ritmo, della divisione ritmica al di fuori dell'umano, e questa capacità di fare la musica al di là della conoscenza tecnica, ma di capire qual era l'accordo giusto, qual era la versione giusta, qual era la canzone giusta. C'è Ivan Lins che dice: se fosse stata una produttrice sarebbe stata una grandissima produttrice. Sì, una Quincy Jones brasiliana, senz'altro. Senti, ma da dove viene la tua passione per il Brasile e perché non ti sei trasferita a Rio de Janeiro? E la passione viene da ragazzina. Io sono stata folgorata da quel disco di Guedes Gilberto, quindi la bossa nova. Ne abbiamo parlato qualche giorno fa, cose. Un disco meraviglioso. E da lì, poi dopo esploso tutto il resto, l'appetito viene assolutamente mangiando, e quindi è diventata da una passione a proprio un impegno di vita, cioè viaggi, ricerche, appassionanti appunto. Il motivo di che non sono trasferita, chi lo sa, cioè sono le vicende un po' della vita, e anche penso, io sono molto europea poi sotto sotto, penso che vorrei starci tanto, ma comunque le mie radici, mi sa che sono allora, qua. Il Brasile è un paese immenso e noi conosciamo musicalmente questo strepitoso paese che è un continente quasi soltanto il Brasile per la grandezza, per musicalmente parlando, per il samba e la bossa nova. Invece c'è tanta musica diversa, ci sono anche radici culturali diverse. Certo, perché è un paese immenso, ha avuto tante diversi strati di colonizzazione, e la musica brasiliana è una musica meccia che mescola tutto, è nata appunto come il jazz, per l'appunto, con la mescolanza tra Europa, Africa, e ci sono delle zone del Brasile qui c'è una musica completamente differente, ossia al nord, il nord-est, Bahia. Sì, perché la diffusione della musica brasiliana è arrivata negli anni in tutto il mondo, proprio quando i brasiliani iniziarono a produrre dischi negli Stati Uniti, e quindi lì ci fu la diffusione discografica mondiale, importante, e con Guedes e Gilberto, quel chiaro disco che è ancora oggi un best seller, tutti hanno apprezzato la bossa. Però prima della bossa nova c'era tanta musica, musica e ancora funziona in Brasile. Assolutamente, cioè lo showinho, che è la prima musica completamente veramente brasiliana, è ancora ascoltata, prodotta, eseguita, composta, no? Quindi. E continua invece la vita della bossa nova anche per merito di alcuni giovani interpreti. Fra questi ce n'è uno che mi piace tantissimo, che è brasiliano ma non è più residente in Brasile ma a Parigi, dove ha trovato l'America, potremmo dire, Márcio Faraco, che qui ascoltiamo in una sua composizione intitolata Saudade Quando Dá. Soundcheck, il suono della musica. Oh yeah, di nuovo in diretta da Firenze per il soundcheck di Radio 24, Barbara Casini, nostra ospite, per parlare di musica, parlare della sua passione per il Brasile, per la musica brasiliana e anche questa nuovissima pubblicazione, Se tutto è musica, pensieri e parole dei compositori brasiliani. Insomma, hai incontrato bella gente, però un paio di personaggi non sei riuscita proprio a vederli. Come mai? Si tratta di Caetano Veloso, soprattutto Milton Nascimento. Vabbè, Milton non sta bene, ma, dai, non, può darsi, non è in diciamo, buone condizioni fisiche. Caetano Veloso ha avuto molto da fare, io adesso non mi dilungherò nel certo è stata una delusione, però è tutto comprensibile. Lo conoscevi? Non l'avevi mai incontrato? No, era un po' più complicata in questo senso. È strano perché è stato facilissimo per te, come mi hai raccontato, incontrare Gilberto Gil, che anche dopo infatti, il suo incarico infatti è stato statale. Gentilissimo, disponibilissimo. Edu Lobo, che non conoscevo affatto personalmente e che adesso siamo diventati super amici, mi porta a pranzo fuori no, Caetano purtroppo no, ma non dispero, potrebbe esserci una nuova occasione per fare una ristampa con un paio di capitoli aggiuntivi. Che cosa ha portato di nuovo Caetano Veloso nella musica popolare brasiliana? Lui è stato un grandissimo comunque compositore, ha scritto delle cose incredibili, ha fatto quel movimento Tropicalia, molto controverso anche da parte loro, di questi protagonisti che ho intervistato. Perché? Perché alcuni sono più radicali in senso conservatore, altri quindi perché... stiamo parlando degli anni 70. Sì, altri perché avevano in vista altre cose, comunque ha avuto il suo grande significato anche sociale in qualche insomma in un certo senso. E comunque la cosa bella era questo fatto di non porre dei limiti e dei tabù e non avere paura dell'aprirsi a tutti i suoni attuali, quindi ad aprirsi alla mescolanza dei vari generi, usare gli strumenti elettrici, insomma tutto un passaggio assolutamente inevitabile secondo me, che loro hanno incarnato anche con una serie di atteggiamenti è più diciamo appunto sul versante più sociale. Ecco, una cosa che mi ha molto colpito leggendo le varie interviste, quello che viene fuori è che tutti questi compositori poi adorano interpretare le canzoni degli altri, come se per esempio in un concerto il nostro Baglioni cantasse le canzoni di De Gregori. Certo. Credo che questo non succeda nel nostro paese, invece i brasiliani sono molto generosi da questo tantissimo. Punto di vista. C'è una tale considerazione del compositore, della composizione, che fra di loro si stimano per questo. L'interprete è importante, ma la figura davvero importante è colui che la scrive, la musica. Quindi si trovano e fra di loro anche mostrando i pezzi nuovi che hanno scritto, ed è bello interpretare il brano dell'altro, anzi è quasi più interessante, alcuni no, hanno detto, perché è un modo di reinterpretare e di ricreare il materiale, insomma. Certo, anche se noi non abbiamo uno studio tecnologicamente fatto per la musica, comunque io ti ho chiesto di portare la chitarra, è stato buffissimo questa mattina incontrarti in bicicletta con la chitarra, certo. Sulle spalle da Baiana. Rigorosamente, ma scherzi. Oh no. Allora, anche se Caetano Veloso non hai avuto la possibilità di incontrarlo, noi lo celebriamo con un tuo piccolo tributo. Che cosa ci proponi? Io propongo un samba che si chiama Os Passistas. Spassista. Che racconta cosa? Che parla dei ballerini di samba che sfilano nel carnevale, ma che sono quelli che davvero fanno i passi, cioè non fanno numero ma danzano sul serio, quindi che incarnano davvero il vero spirito del samba, o spassista. Allora Barbara Casini dal vivo al soundcheck di Radio 24 qui da Firenze, ti facciamo il soundcheck in corsa. Vai. Cartão postal com touros em Madrid, o Corcovado e o Redentor daqui, Salvador, Roma, amor, onde quer que estejamos juntos, multiplicar-se em assuntos em mãos e pais e desvãos do céu. Bellezza! bellezza, mi hai regalato un momento di grandissima felicità. Barbara Casini, ospite del Soundcheck, sarà con noi anche domani per parlare di musica brasiliana e ascoltare il suo meraviglioso talento. Allora, felicità, ho detto felicità? E allora chiudiamo con A Felicidade. E qui arriva un'altra protagonista meravigliosa della nuova generazione. Suonava il pianoforte per Vinicius De Moraes quando aveva 17 anni, chissà che non ci sia stato anche qualcosa di più, però sai, con i brasiliani non si sa mai. Io vi saluto, vi auguro buona giornata, buona musica, ci sentiamo domani alla stessa ora con il Soundcheck. Appuntamento a domani. Barbara Casini e qui Eliane Elias, a Felicidade. Una ritmica brasiliana a disposizione di Eliane Elias per questa versione di A Felicidade registrata un po' di tempo fa con la partecipazione di quello che un tempo era suo cognato, perché Eliane Elias è stata sposata con Randy Brecker e quindi lì la connection con Michael Brecker al sax tenore. Credo che anche diciamo l'apparato fisico di Eliane Elias l'abbia aiutata nella carriera, che dici Barbara? Probabilmente sì, però via. Però insomma non possiamo. La pill, ho notato che ultimamente anche nelle copertine dei dischi appare quasi più come Gisele Bündchen, la famosa top model brasiliana che è come la Fitzgerald, per dirne una. Sì. E quindi adesso è sposata con Mark Johnson e continua a divertirsi facendo musica a destra e sinistra. Mi sembra la cosa più Senti, bella. Che cosa pensi di suonarmi domani? Domani penso che mi allargherò e farò un brano mio. Oh, questo in italiano? Vediamo, forse sì. Che cosa? Ma sempre molto brasiliano come sapore. Va bene, allora voglio anche anticipare che domani vorrei ospitare qui al Soundcheck un mio amico che si chiama Felice Limosani, che è un pazzo furioso, un vero creativo. Sarà che lavora con alcuni dei brand di moda, visto che ci troviamo a PT Moda più importanti del mondo. Quindi salutiamo e ci risentiamo domani. A domani. Okay. Ciao a tutti. Soundcheck. Il suono della musica.